Santa Maria. voi dopo. Uno di Salvatore, un buon giorno, per un altro letto di cola, basta al mese. Per un altro punto, per un altro punto.